Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora subito uno sguardo alla borsa per poi raccontarvi i temi di questa puntata, della cronaca di questa giornata economico-finanziaria. In sostanza ci occuperemo oggi di scudo fiscale, la parte più tecnica, come funziona, chi riguarda, perché alcuni lo chiamano un condono valutario, che cosa fanno gli altri paesi, che cosa è successo nel passato. Questo dopo i mercati finanziari. Prima ci occuperemo invece del tavolo tra banche e imprese per arrivare alla moratoria sulle rate dei crediti in scadenza, moratoria chiesta dalla Confindustria, proposta e appoggiata anche dal ministro Tremonti, lo ricorderete, nell'ultima assemblea dell'ABI la settimana scorsa. In cambio, ha detto Tremonti, il governo è disponibile a ragionare sulla tassazione delle sofferenze bancarie, visto che il periodo fa sì che le banche spesso abbiano difficoltà a rientrare sui prestiti concessi alle imprese, ma non solo. La borsa, dicevo, per quello che riguarda Milano siamo in rialzo dello 0,6%, meglio fa Parigi più 1,3, Francoforte più 1,1, più 0,6 anche Londra, l'America più 0,1. L'euro è sempre sopra quota 1,40, 1,41,2, quindi possiamo dire che per ora ci si sta avvicinando a un'estate, a un inizio festività estive in maniera abbastanza tranquilla per quello che riguarda le borse. Il FTSE MIB è a 19.200 punti. Tra i titoli notiamo oggi soprattutto Fiat, più 4% dopo i dati che vi abbiamo raccontato ieri sulle immatricolazioni auto in Europa e su quanto è aumentata anche la quota Fiat. A2A più 2,90, Prismian più 2,80, il 2,3 lo guadagna Autogrill, l'1,7 UbiBank, 1,5% il rialzo di Fondiaria, ma anche di Pirelli e Luxottica, l'1,3 lo guadagna Alleanza Assicurazioni e Generali. Chiudiamo con Mediaset, Monte dei Paschi, ma anche Tenaris e Saipem, che guadagnano 1% percentuale, a cui si aggiunge adesso anche Intesa San Paolo e nelle Cireleni. Chi perde invece? Il Banco Popolare il 3,36, Buzzi Unicem il 2%, ST Microelectronics il 2,1, Ansaldo il 2%, Atlantia perde l'1,7%, Mediolanum 1,3%, Enel lo 0,7% di calo. In generale, tra i migliori e i peggiori notiamo Nokia, e ne parleremo più avanti. Nokia ha avuto dei bruttissimi dati sulle vendite, meno 25%, e anche l'utile è calato molto per quello che riguarda il colosso finlandese della produzione dei telefonini, meno 25% comunque le vendite. Il titolo perde il 13,7%. E poi invece sul fronte opposto Banca Italease, la ristrutturazione porta vantaggi al titolo, più 13,7%, Viaggi del Ventaglio più 12%, Richard Ginori più 11,30%, Tiscali più 8,90%, Mertec-Nimont più 9,2%. Ultima cifra e poi iniziamo con le altre notizie, quella per i vostri sms, 349-238-6666. Parleremo, lo dico anche a chi lo scrive, del rapporto Svimez sul nostro mezzogiorno, già se ne è occupato il GR Extra Large alle 13, chiaramente ci occuperemo anche dei dati abbastanza preoccupanti che arrivano dal sud del paese, quanto economia. Comunque andiamo con ordine, il petrolio resta per fortuna inchiodato intorno ai $60 al barile, 60,78, e quindi non sarà un'estate calda, perlomeno sul fronte del prezzo del petrolio, viste le temperature di oggi nel nord Italia. Mercati, dicevamo, l'euro è così forte che praticamente da noi c'è un vecchio indice dell'Economist che si chiama l'indice Big Mac Index, e viene utilizzato per vedere quanto costa la vita, immaginando che il prezzo di un panino di McDonald's rispecchi il costo della vita nei vari paesi, perché McDonald's cerca di mantenere in proporzione il costo uguale in tutti i paesi a seconda di quello che è il costo della vita. e si chiama Big Mac Index, è usato da decine di anni. E in sostanza i costi del panino nelle 33 economie mostrano che praticamente un Big Mac in Europa costa il 30% in più che negli Stati Uniti. Ci vogliono $4.62 contro i $3.57, questo per quello che riguarda la forza dell'area euro, e costa comunque 2,5 volte quello che costa in Cina, ma anche in Norvegia. Tra l'altro, questi sono scherzi dei cambi, chiaramente il rapporto tra dollaro ed euro, mentre resta il Big Mac un ottimo misuratore, lo dico a chi fa battute, del potere d'acquisto delle varie monete. Perché? Perché è forse l'unico prodotto distribuito e diffuso esattamente con le stesse caratteristiche in tutto il mondo. Quindi vedere quanto poi la McDonald's cambia il prezzo di questo Big Mac fa capire quanto costino le diverse materie e quindi quale poi è il potere d'acquisto e il costo della vita. Chi sono i paesi più svantaggiati? Ripetiamo, i paesi europei ricchi. Il Big Mac più caro si trova infatti in Norvegia, $6.15, Svizzera $5.98, Danimarca $5.53, Svezia $4.93. Sul fronte opposto, Hong Kong è la piazza più economica, $1.72, e in Cina $1.83. Chiudiamo con questa cosa, però lo spiego, perché poi quando si dice guadagni $2.000 bisogna capire quanto costa la vita. Ecco, l'indicatore Big Mac ti permette di dire quanto valgono $2.000 laddove un panino di McDonald's costa $1.83 o dove là invece lo stesso panino costa $6. È chiaro che valgono un terzo come potere d'acquisto. Va bene, va bene. Abbiamo iniziato con l'indice di McDonald's. Adesso andiamo avanti con i dati seri, quelli pesanti. I sussidi alla disoccupazione in America sono calati di 47.000 unità, un buon dato, è migliore anche delle stime degli analisti. E per quello che riguarda invece l'indice cosiddetto della Fed di Filadelfia, che sintetizza l'andamento del comparto manifatturiero, è invece sceso più delle attese. Ancora, la crisi ha portato in America un calo degli investimenti netti in attività finanziarie in dollari pari a $66 miliardi. E questo deflusso, questi capitali in uscita dall'America sono superiori alle attese. Le attese parlavano di $11 miliardi, invece sono $66 miliardi. Sì, non so quanto costa in Giappone il Big Mac, però insomma, andremo a prendere la classifica dell'Economist. Sono 33 i paesi per capire dove la vita costa di più. Dico una cosa che è un segreto di Pulcinella: grandi corporate mondiali, per stabilire quanto devono pagare manager a seconda che vivono in Giappone, in Cina, in Danimarca o in America, usano anche come indicatore del potere d'acquisto quello che è il costo del classicissimo hamburger. Dicevamo di Nokia, meno 25%, ne parleremo più avanti. Avremo infatti il nostro ospite, il numero uno di Intel Italia e Svizzera, visto che Intel ha diffuso dei dati molto buoni ieri per capire appunto come mai i produttori di software per PC vadano bene, mentre i venditori di produttori di telefonini vedono appunto l'utile crollare da 1.200 milioni di un anno fa a 380 milioni del secondo trimestre di quest'anno. Il dato è su Nokia. È interessante anche il fatto che per la prima volta da 27 anni sono calati i consumi elettrici in Italia. Poi lasciamo stare le varie previsioni e opinioni, questi sono dati forti, sono dati che segnalano una crisi mai vista prima. Meno 0,1%, non è un dato allarmante, ma è sicuramente importante notare come da 27 anni a questa parte i consumi elettrici non erano mai calati nel nostro paese. E chiaramente la parte del leone, la responsabilità maggiore ce l'ha l'industria, che ha avuto consumi elettrici in calo del 2,8%, perché le imprese, le industrie, i manifatturieri hanno lavorato meno. Il nostro GR vi ha già anticipato, arriveranno 900.000 rimborsi per i contribuenti, valgono €600 milioni sulle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 2020. 7. Nel frattempo, sempre sui conti pubblici italiani, la Commissione europea ha accolto con favore la proposta presentata dal governo sull'innalzamento dell'età pensionabile. Donne del pubblico impiego in pensione a 65 anni. E oggi c'è stato un incontro a Palazzo Chigi tra il governo e le parti sociali proprio sull'emendamento in materia previdenziale. Lo ricordiamo, l'emendamento prevede un aumento graduale dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego a partire dal prossimo anno e dal 2015 per tutti l'età pensionabile sarà legata all'aumento delle aspettative di vita. Tremonti, il ministro dell'economia, ha detto nuove norme non sono state dettate da una scelta di fare cassa, mentre il ministro welfare Sacconi ha detto attenzione, per ora è escluso nel modo più assoluto un innalzamento dell'età pensionabile per le donne nel settore privato. Gli incontri con le parti sociali sono stati molto positivi, la consultazione ha consentito di registrare il consenso di tutti, tranne alcune perplessità della CGIL, che peraltro a mio avviso si è espressa in termini sostanzialmente costruttivi. Penso che questo possa essere un buon viatico a una disciplina in parte imposta dalla Corte di Giustizia europea e in parte destinata a stabilizzare nel lungo periodo la spesa previdenziale in rapporto all'aspettativa di vita, ma con effetti impercettibili per le persone, nessuna delle quali dovrà cambiare la propria programmazione di vita, perché parliamo di, nella peggiore delle ipotesi, di incrementi di qualche mese meno delle cosiddette finestre che spesso costringono ad aspettare alcuni momenti dell'anno per andare in pensione. Il ministro Tremonti ha detto non facciamo questa riforma per fare cassa ma per garantire il benessere del paese, per cautelare l'esistente. Tutte le economie che deriveranno soprattutto dall'innalzamento dell'età di lavoro delle donne nel pubblico impiego, che come sappiamo poi è graduale, resteranno nella politica sociale, mentre invece le altre non sono economie, sono una forma di stabilizzazione, cioè di garanzia che la spesa previdenziale non debba crescere a dismisura per l'effetto dell'allungamento dell'aspettativa di vita. Così il ministro welfare Sacconi al microfono della nostra Elisabetta Fiorito. E i risparmi, secondo le simulazioni condotte dall'INDAP, la nuova normativa porterebbe a risparmi tra il 2010 e il 2018 di circa 2 miliardi e mezzo di euro. Vi sarebbero nel 2018 minor pensioni per 30.000 individui, anzi lo ha stimato poi anche, lo ha ricordato, il ministro Brunetta. La CGIL contesta il provvedimento, dice che è un aumento forzoso, stride con altri in discussione e il timore che non si limiterà solo al pubblico impiego. Sentiamo Morena Piccini, segretario confederale della CGIL, sempre al microfono della nostra Elisabetta Fiorito. La CGIL è totalmente, profondamente contraria con lo schema che ci è stato prospettato oggi. È contraria all'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel settore pubblico che ci è stato prospettato. Lo riteniamo un provvedimento ingiusto, riteniamo che la parità uomo-donna possa essere realizzata tornando alla flessibilità della Dini e riteniamo anche che questo provvedimento apra delle assurde discriminazioni tra donne del settore pubblico e del settore privato, per cui tutte le donne ritengono che invece debba rimanere l'attuale età pensionabile ritornando alla flessibilità. Siamo poi contrari al fatto che dal 2015, arrivati sostanzialmente tutti a 65 anni, si riparta con un ulteriore innalzamento dell'età pensionabile, perché è questo che ci è stato detto, in modo automatico, in relazione all'aumento delle aspettative di vita, continuare ad aumentare l'età pensionabile, sapendo che proprio nella legge di riforma del 95 il tema dell'innalzamento delle aspettative di vita era già stato contemplato in base ai provvedimenti sui coefficienti. Quindi in quel provvedimento che ci è stato illustrato oggi in sostanza ci si dice lavorerete tutti di più ma per prendere meno, e su questo noi non possiamo essere d'accordo. Così. così appunto Morena Piccini, segretaria confederale della CGIL. Faccio solo notare, non ci capisco molto per carità di pensioni, che la richiesta di equiparare l'età pensionabile donne e uomini arriva da Bruxelles, dall'Europa. Non mi sembra che il governo obiettivamente abbia mai spinto per aumentare l'età pensionabile, anzi ha sempre detto, per soprattutto il ministro Tremonti, che non era all'ordine del giorno un aumento dell'età pensionabile, quando richiesto per esempio da Confindustria, ma non solo. Sul fatto che poi dal 2015 si vada in pensione un po' più tardi, io vedremo poi le condizioni, quanta parte della pensione, dell'ultimo salario, si tradurrà in pensione, però io non ci vedo obiettivamente nulla di strano. Cioè, allunga l'età della vita, casomai il problema qui sono i prepensionamenti, gli scivoli, gli esuberi, non il fatto che la gente resti a lavorare un anno in più. Vabbè. Comunque andiamo avanti con le altre notizie, perché invece l'ok arriva dalla CISL alle norme per l'innalzamento dell'età pensionabile dei lavoratori dipendenti del pubblico impiego, approvata anche dalla UIL la linea del governo. Paradosso dei numeri, prima di arrivare poi al turismo. Perché? Perché oggi abbiamo scoperto un paio di cose interessanti proprio sul tema dell'export e import delle imprese. Meno 27% le esportazioni italiane, meno 30% le importazioni. Perché? Perché insomma, la difficoltà economica c'è dappertutto, ma il dato non è solo così negativo. Eh sì, vanno molto male le nostre esportazioni, appunto meno 27% a maggio, meno 30,1% le importazioni. E che cosa succede quindi? Che nonostante l'export sia impicchiata, è ancora più impicchiata quello che noi importiamo, e quindi il saldo della bilancia commerciale, la differenza tra importazioni e esportazioni, è positivo. Quindi c'è una buona notizia dentro uno scenario negativo, è positivo per 1 miliardo e 187 milioni, addirittura è positivo a fronte di un saldo negativo un anno fa, quando sicuramente si esportava molto di più, ma si importava anche molto di più, e quindi la bilancia commerciale era in passivo. Quest'anno è nel mese di maggio in attivo. Certo che questo poi nasconde la difficoltà che hanno le imprese a esportare e la difficoltà anche nei fatturati degli ordinativi, però vedete come poi i numeri possono essere presi in un modo o nell'altro. Tra l'altro le nostre esportazioni sono crollate a maggio soprattutto verso l'Europa, meno 31,7%, e la parte del leone in questo crollo l'hanno avuta gli autoveicoli. E poi restiamo ancora in tema di autoveicoli, perché si riaprono alcune indiscrezioni sulla vicenda Opel. Sì, perché secondo la stampa internazionale e soprattutto secondo la stampa tedesca, il tabloid e la Bild, nella corsa all'acquisto della Opel, la società belga RHJ International, cioè Ripplewood, il fondo, sarebbe di nuovo in testa. Allora, noi pensavamo che l'operazione si fosse chiusa quando il governo tedesco ha detto che aveva vinto Magna, austro-canadese, assieme ai russi. Molti avevano detto: attenzione, potrebbe riaprirsi, c'è la campagna elettorale in corso, vedremo cosa capiterà anche dopo settembre, dopo la campagna elettorale in Germania. Però oggi la Bild scrive che di nuovo in testa sono i belgi. Sempre sul settore auto, oggi per comprare la Bertone, l'italianissima Bertone, storica carrozzeria torinese, si sono fatte avanti in praticamente 5 quanto offerte. E ancora, per quello che riguarda un'azienda italiana, l'Impregilo ha vinto, a questo punto è ufficiale, è nell'accordata che ha vinto la gara per ampliare il canale di Panama, un'offerta economica di 3 miliardi e 220 milioni di dollari. Adesso passiamo a un primo tema di questa puntata, il credito alle imprese. Tavolo banche e imprese, rappresentanti del commercio e dell'artigianato sulla moratoria dei crediti alla presenza del ministro dell'economia Giulio Tremonti. Si va verso l'accordo sulla moratoria per i crediti. La sigla arriverà prima di agosto, come chiesto anche dalla Confindustria. Il ministro Tremonti dice: per le aziende ora la prima, il primo fronte, la prima cosa è vivere, primum vivere, cioè riuscire a superare la parte, diciamo, dell'autunno per poi sperare di tornare a respirare a inizio anno. E ancora vediamo, secondo la voce del presidente Confindustria Marcegaglia, quali sono le ipotesi su questa moratoria nel rientro, nel rimborso dei crediti concessi alle imprese. È stato un colloquio, una discussione molto utile. Ci siamo dati appuntamento già la prossima settimana per un successivo incontro. Ci siamo dati alcuni obiettivi chiari. Intanto il tempo è fondamentale, quindi vorremmo nel giro di poche settimane già avere la possibilità di arrivare a un accordo. L'idea è proprio quella di lavorare in una logica di riscadenziamento dei finanziamenti che le banche danno alle imprese. Ovviamente seguirà un tavolo tecnico per discutere quali tipologie di finanziamento e che durata del riscadenziamento. Comunque tendenzialmente abbiamo parlato di un anno. Dall'altra parte il tema è quello che le banche che andranno in questa direzione potranno avere accesso a una sorta di bonus fiscale che renderà una quota maggiore delle perdite su crediti in qualche modo deducibili dal reddito d'impresa. Abbiamo anche accennato a approfondire il tema della patrimonializzazione delle imprese, che è un tema che ci sta particolarmente a cuore. C'è bisogno di un approfondimento tecnico, lo faremo già la prossima settimana. Successivamente seguirà invece un altro tavolo più politico. L'obiettivo veramente è quello, nel giro di qualche settimana, di arrivare a un accordo tra tutte le parti. Così la presidente di Confindustria Marcegaglia sull'obiettivo di arrivare appunto a una chiusura prima di agosto, e appunto il governo che potrebbe riconoscere sgravi fiscali, deducibilità delle perdite, soprattutto alle banche che appunto riscadenzieranno i finanziamenti alle imprese, vale per i mutui ma anche per i leasing. Sentiamo le banche, ossia il presidente dell'ABI Corrado Faissola. L'esigenza di superare possibilmente, almeno in buona parte, la dialettica polemica, dialettica sana assolutamente sì, tra i diversi attori del mercato, costituisce un passo veramente importante, perché se ci si mette a litigare e a rintuzzarci reciprocamente, probabilmente i risultati per le nostre imprese e quindi per la nostra economia non sarebbero positivi. Questo confronto che porteremo avanti rapidamente nei prossimi giorni, gli attori sono l'ABI e le associazioni, tutte degli imprenditori. Facciamo molto affidamento ovviamente sull'impegno del governo. I contenuti ovviamente non potranno che essere quelli che tendono nell'immediato futuro, alla ripresa autunnale, a mettere le piccole e medie imprese in condizione di avere meno problematiche in materia di scadenze finanziarie. Quindi cerchiamo di trovare soluzioni che diano non soltanto fiato dal punto di vista finanziario alle imprese, ma soprattutto una rinnovata, più accentuata fiducia tra il mondo delle banche e il mondo delle imprese. Così il presidente dell'ABI Corrado Faissola. Adesso le informazioni meteo, la pubblicità, qualche risposta brevissima a chi scrive, per esempio, di assunzioni nel mondo bancario. È vero, in Italia qualcuno si sta tornando a muovere, non posso fare nomi e cognomi, non facciamo pubblicità, così come ieri facevamo notare che nella City sono tornate per la prima volta le assunzioni, da un anno a questa parte, le assunzioni nel settore banca e finanza, nella City londinese. Un'ultima precisazione, attenzione sull'età pensionabile, l'aumento per le donne riguarda solo le donne del pubblico impiego, quindi è inutile fare esempi di lavori usuranti, come possono essere lavori molto pesanti anche fisicamente per quello che riguarda le donne. Sul fronte privato va bene, guardate che nell'aumento dell'età pensionabile i lavori veramente usuranti hanno sempre avuto un altro trattamento, però Un conto è dire che uno fa il muratore e sicuramente un anno in più è pesante, ma se uno ha lavorato di fronte a una scrivania, a un computer, ed è diciamo, professionalmente attivo, non capisco perché non debba stare un anno in più al lavoro. Dice 7.36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di borsa, chiuso l'aggiornamento per quello che riguarda il primo incontro tra banche e imprese, vedremo poi quando arriverà la firma definitiva. La borsa, dicevamo, più 0,5% il FTSE MIB, più 0,6% il FTSE All, Parigi più 0,90%, Francoforte più 0,60% e Londra più 0,50%. L'America perde lo 0,1% sul Dow Jones. Stanno in pulso meno 0,4 euro a quota 1,41 sul dollaro. Bene, comunque, vista la giornata di ieri, ci si poteva attendere qualche realizzo oggi sul mercato, così per fortuna diciamo non è stato. Molto bene Fiat, più 4,1%, che gode ancora dei dati diffusi ieri sulle immatricolazioni. A2A più 2,81 immatricolazione a livello europeo, più 2,81 Prismian, più 2,6 come Autogrill, UbiBanca più 1,7, Luxottica 1,5%, Tenaris più 1,2 come Alleanza, il Monte dei Paschi e le Generali, ma anche Fondiaria, SAI, Intesa, Saipem, CIR, Telecom e Mediaset, ma anche Pirelli e Impregilo hanno guadagnato 1%, Eni più 0,80%. Fronte opposto, perde il Banco Popolare meno 3,4, Ansaldo il 2,2, Buzzi Unicem perde il 2 come Atlantia, L'1,90 lo perde ST Microelectronics, lo 0,90 lo perde Enel, mezzo punto è il calo di Snam e della Popolare di Milano. Nel giorno in cui l'euro continua a mantenersi a quota 1,41 sul dollaro, Andrea Fontana, Radio Core, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Andrea, Fiat. Sì, un'ottima Fiat, più 4%, ricordiamo l'effetto ieri dei dati delle immatricolazioni, ma c'è da dire anche che oggi è stato influenzato da una buona valutazione, un buon giudizio da parte di Bank of America Merrill Lynch, che vede dopo i risultati del secondo trimestre della società anche la possibilità di un rialzo delle stime per quanto riguarda gli utili di fine anno. Scommette su questo, oggi un buon momento del comparto auto, e su queste indicazioni Fiat ha guadagnato oltre il 4%. Conta in qualche modo la vicenda Opel oppure no? Nel senso che Fiat per ora, diciamo, fin qui non è della partita, mentre Ripplewood è tornata, diciamo, a agitare così le ipotesi più speculative. Bisogna dire che il mercato sulla vicenda Opel, a parte i primissimi giorni, è sempre stato all'insegna della cautela, per cui questa vicenda non ha mai acceso in maniera evidente il titolo Fiat. In questo momento appunto non c'è, diciamo così, un collegamento diretto, almeno secondo quanto dicono gli operatori, tra le possibili evoluzioni della questione Opel e l'andamento di Fiat. Invece si guarda molto di più ai fondamentali, alla ripresa del mercato dell'auto sia in Italia che in mercati importanti come quello del Brasile, alla questione del mercato dei camion e di CNH, e meno diciamo a queste speculazioni che invece peraltro potrebbero dare spunti al mercato in un immediato futuro. Ancora con i titoli, per quello che riguarda Italease, praticamente non verrà levata dal listino, e questo ha fatto schizzare il titolo, no? Più 48,9% per una banca che insomma è venuta da qualunque tipo di avventura, 2,17 euro. Sì, certamente va detto che dopo i risultati dell'OPA il flottante in circolazione sul mercato è veramente risicato, cioè poco meno del 12%, e quindi questo chiaramente induce una forte volatilità sul titolo. C'è da dire che qualcuno ha anche provato probabilmente a scommettere in un rilancio di Italease stessa dal punto di vista industriale c'è in ballo, e lo stesso Saviotti lo ha confermato in un comunicato nel pomeriggio, un aumento di capitale che sarà nell'ordine di 1 miliardo, quindi sicuramente all'indomani del fallimento tra virgolette dell'OPA del Banco Popolare, perché era finalizzata al delisting, certamente il titolo sottile e le prospettive hanno un po' alimentato la speculazione. Diamo un po' più rapidi, Andrea, per favore. Telecom Italia. Per quanto riguarda Telecom Italia, una buona notizia soprattutto per i soci di Telco, ovvero la Consob brasiliana si è pronunciata, l'autorità di controllo brasiliana si è pronunciata contro, diciamo così, l'obbligo da parte di Telco di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto su Team Brasil, contrariamente invece a quanto aveva detto nei mesi scorsi, quindi certamente Telecom ne ha beneficiato, i suoi azionisti non dovranno tirar fuori altri soldi per una OPA su Team Brasil. Grazie Andrea Fontana, Radio Coro, Il Sole 24 Ore. Altri titoli oggi per quello che riguarda il mercato, diciamo dei migliori, già lo ricordava Fontana: Italease più 48%, Viaggi del Ventaglio più 12%, Richard Ginori più 11%, e ancora Mer Tecnimont più 8,80%, Tiscali più 7,14%, sul fronte opposto Nokia meno 12,7%, Seat pagine gialle meno 9%, Icon meno 4,60%, questi peggiori. Bene, ieri STMicroelectronics dopo i dati Intel, oggi qualche presa di profitto, come si dice in gergo, qualche realizzo, meno 1,90%, nel giorno in cui sono usciti altri dati per quello che riguarda il settore delle information technology, detto in maniera generica, i dati di Nokia, mentre si attende per la serata, si attendono i conti di IBM e di Google. Eh sì, trimestrale in bruttissimo calo per Nokia, meno 25% le vendite, l'utile è crollato. Pensate che nel secondo trimestre del 2008 la Nokia aveva registrato l'anno scorso 1,1 miliardi di euro di utile, quest'anno si è dovuta accontentare di 380 milioni di euro. Questo il giorno dopo invece dei dati più che buoni per quello che riguarda un altro colosso del settore in senso lato, e mi riferisco a Intel. Siamo in collegamento con l'ingegner Dario Bucci, che è il delegato di Intel Italia e Svizzera. Buonasera, ingegnere. Buonasera a voi. Dunque, fatturato, come abbiamo visto, pari a 8 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2009, più 12% rispetto al primo trimestre. E anche qui il margine lordo che aumenta, gli utili che in sostanza tornano a crescere. Come mai, o meglio, quali sono gli elementi che hanno fatto registrare un secondo trimestre migliore del primo? Beh, noi avevamo detto che forse avevamo toccato il fondo con i risultati del primo trimestre e intravedevamo dei segnali di crescita. Direi che il mercato che sta dando dei buoni riscontri è quello consumer, è quello di chi acquista i personal computer per uso personale e soprattutto portatili, e questi portatili molto piccoli chiamati netbook, che in modo particolare in Italia stanno avendo un discreto successo. Quindi vi state concentrando sui netbook, sui piccoli portatili come operatività? Beh, diciamo che non tanto noi abbiamo reso possibile venissero realizzati, e diciamo che stanno incontrando i favori del pubblico, sono un aspetto innovativo e come in tutti i periodi di crisi un po' di innovazione serve a stimolare la domanda. Noi siamo anche fiduciosi che una nuova serie di prodotti che da poco è stata introdotta, che una nuova categoria ultra sottili consentirà quindi di avere anche una nuova diciamo entusiasmo da parte del mercato verso anche questi prodotti che rispetto ai netbook consentono di fare un po' di più. I netbook sono solo per fruire contenuto da internet, mentre questi ultra sottili invece consentiranno anche di manipolare contenuto e avere un'esperienza un po' più completa. Ecco, tutto in un periodo per voi in cui le difficoltà non sono arrivate tanto dal mercato, che abbiamo visto essere in ripresa, quanto dalla multa record che vi ha inflitto la Commissione Europea lo scorso 13 maggio, 1,5 miliardi di dollari, con l'accusa di abuso di posizione dominante nel fornire i vostri processori alle varie aziende produttrici di PC. Tra l'altro questa multa, se ben capito, è il motivo per cui avete avuto comunque il primo rosso in 22 anni. Beh sì, dal punto di vista contabile noi abbiamo detto che abbiamo messo a bilancio questa multa in questo trimestre e verrà versata in un fondo il prossimo trimestre, non verrà versata direttamente perché abbiamo intenzione di fare ricorso, in quanto noi non ci riconosciamo nella decisione presa dalla Commissione europea, in quanto pensiamo che il mercato dei semiconduttori sia estremamente competitivo. Lo dimostra il fatto che tra 2.400 prodotti campionati negli ultimi 5 anni il prodotto che ha avuto un decremento di prezzo maggiore è proprio il microprocessore, quindi questa testimonianza che il mercato è assolutamente vivace e quindi non ci riconosciamo. Pensiamo oltretutto che avremmo avuto la possibilità di far valere un po' le nostre ragioni, non ce ne sia stata data la possibilità, quindi saremmo assolutamente contenti di poter appellarci e di poter far valere i nostri diritti. Ultimo commento che vorrei da lei riguarda un'azienda, un colosso di un settore contiguo, e mi riferisco a Nokia, perché oggi abbiamo visto crollare invece l'utile della trimestrale, meno 25%. Secondo lei ormai il mondo dell'information technology, inteso come PC e software e applicazioni, viaggia su un binario diverso rispetto alle TLC in senso stretto e classico? Beh, ci sono punti in comune, ma sono comunque mercati differenti. Direi che il personal computer comunque viene individuato come un oggetto e di intrattenimento e anche di un investimento in termini di educazione personale, si pensa anche come viene utilizzato per essere un dono per le promozioni ai figli, eccetera, eccetera. Mentre il cellulare in questo momento è visto forse come qualcosa che va solo a sostituire qualcosa che si ha già, e quindi se non ce n'è un motivo molto forte, ci si tiene quello che si ha in un momento in cui ovviamente i fondi scarseggiano. Sì, mi fanno notare gli ascoltatori al 349-238-6666 che ho detto meno 25% l'utile. No, chiaramente sono le vendite, come ricordavamo prima, meno 25%, l'utile è calato e molto, a 380 milioni di euro contro 1 miliardo e 100 milioni di euro nello stesso periodo del 2008, per cui siamo passati per Nokia da 29 centesimi di euro per azione a 10 centesimi di euro per azione, quanto utile. Grazie all'ingegnere Dario Bucci, amministratore delegato di Intel Italia e Svizzera. Grazie a voi. minuti, ultima parte di Focus Economia. Arriva lo scudo fiscale messo a punto dal governo, l'abbiamo raccontato anche ieri, aliquota del 5% da applicare sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno fino al 31 dicembre del 2008 o rimpatriate e regolarizzate a partire dal 15 ottobre 2009 fino al 15 aprile 2010. Alcuni dettagli li affrontiamo con Alessandro Dragonetti, che immagino essere commercialista dello studio Bertoni Professionisti della Società di Milano. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, dottor Dragonetti, per quello che riguarda i dettagli tecnici, qual è la differenza, perché abbiamo ricevuto molti messaggi, tra la regolarizzazione e il rimpatrio? Perché sembrerebbero due cose simili, ma così non è. No, esattamente. Il rimpatrio si sostanzia nella reintroduzione delle attività detenute all'estero illecitamente nei confini dello Stato. Quindi vuol dire riportare in Italia ciò che è tenuto illecitamente all'estero. La regolarizzazione invece consiste nel sanare l'illecito valutario mantenendo nel territorio estero le attività finanziarie o patrimoniali che fino ad oggi erano illecitamente conservate. La differenza tra questo scudo e il precedente è che questa volta la regolarizzazione sarà possibile solamente in ambito UE. Quindi se io ho portato dei soldi in un paese europeo, e chiaramente per regolarizzare vuol dire che lo porto in maniera irregolare, però nel paese europeo posso tenerli, parliamo in Lussemburgo, basta che però li regolarizzi, li denunci allo Stato italiano, al fisco italiano, paghi questo 5%. Esatto. Se invece li ho portati alle Cayman, sempre in maniera irregolare e illegale, sono obbligato a riportarli dentro l'Italia. Hai capito? Perfetto. Bene? Perfetto. Ecco, come mai questa differenza tecnicamente, ma anche come obiettivo? Sicuramente ritengo che sia un'esigenza di scambio di informazioni che a livello comunitario è molto più stringente, molto meglio collaudato rispetto a uno scambio di informazioni a livello non UE, nel quale molti progressi si sono fatti dall'11 settembre 2001 a oggi, ma ancora qualcosa deve essere affinato a livello di collaborazione. Ecco, mentre oggi il governo riceve anche un plauso parziale da parte del Financial Times, il commento di Paul Betts che dice beh, potrebbe anche non essere una cosa sbagliata, vorrei capire come mai, come fa secondo lei il governo a stimare 3 miliardi la cifra, cioè se sì, sono capitali che sono usciti in maniera illegale dall'Italia, è difficile anche sapere quanti sono. Sì, tenga presente che le stime che giravano sui giornali negli ultimi mesi, quando si parlava di questa possibilità di provvedimento normativo, si parlava di 600 miliardi di somme detenute illecitamente all'estero. Se questo fosse vero, un 10% corrisponderebbe a 60 miliardi di somme rimpatriate, ecco che al 5% ci darebbe quei famosi 3 miliardi, che sarebbe superiore a quanto è stato, diciamo, incassato dal nostro Stato nei due scudi precedenti, 2001 e 2003. Gli effetti, una volta che io pago questa aliquota del 5% e faccio tornare i soldi in Italia se li ho fuori dall'Europa, o li posso anche lasciare in Europa se li ho in Europa, questa di fatto è una, diciamo, una sanatoria, la mia posizione col fisco è chiusa. Diciamo che non è esattamente così, ecco. Perché senz'altro si parla di una sanatoria amministrativa per quanto riguarda gli illeciti valutari e la mancata comunicazione e dichiarazione delle consistenze estere. Si parla sicuramente di una preclusione di accertamento tributario e accertamento contributivo nei limiti chiaramente degli importi scudati, cioè degli importi regolarizzati. Sì. Si parla di una sanatoria dal punto di vista penale solamente per la infedele o per omessa dichiarazione. Resta invece aperta tutta la punibilità per reati penali che non rientrano nell'omessa dell'infedele dichiarazione. Quindi mi riferisco in particolar modo ai reati societari, che restano totalmente scoperti, certo, da questo tipo di sanatoria. A questo proposito, possiamo ricordare quali capitali sono esclusi da questo possibile rientro e o regolarizzazione? Ci riferiamo ai capitali frutto di proventi illeciti e di attività che sono particolarmente, diciamo, quindi droga, riciclaggio. Ecco, le faccio una domanda, però mi scusi se non voglio essere polemico, ma in chiusura, ma se io avessi 1 miliardo di euro in un conto alle Cayman, lei come fa a sapere che questo miliardo me lo sono fatto vendendo cocaina o eroina, oppure invece non fosse frutto di qualche vendita immobiliare che ho semplicemente illecitamente portato all'estero? Questo è il grande problema. Non è che c'è scritto sui biglietti, sulle banconote, no? Certo, questo è il grande problema, il grande, diciamo, rischio che avranno gli intermediari abilitati finanziari, che si troveranno a dover ricevere le comunicazioni di richiesta di adesione allo scudo, dovendo valutare, diciamo, se la fattispecie può potenzialmente rientrare in quelle che la legge non consentirebbe, anche l'obbligo di fare delle comunicazioni particolari. Grazie Alessandro Dagonetti dello studio commercialista Bernoni, professionisti associati di Milano. Da Sebastiano Berisoni a voi in ascolto l'augurio di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi per l'ultima puntata della settimana di Focus Economia.